senza bip. Da, facciamo quasi 100 anni in due, diamo ancora la colpa agli altri. È colpa sua, l'ha tolta dal computer che ce l'avesse soltanto lui e non la rimette. E vabbè, comunque, constatando anche il fatto che siamo nelle mani di un monopolista, evidentemente andiamo a iniziare quando sono le 21:11. La nuova puntata di Tabula Rasa, io ormai ho perso il conto perché sempre per colpa dell'altro. No, questa è colpa di tutte e due, perché c'è una cosa in comune, oltre alla rassegna stampa. L'intelligenza? Non è l'intelligenza, quella è la mia, che riesca a stare con voi. Però diciamo che c'è cioè, per cui detta l'agenda di Tabula Rasa, perché non si capisce come quest'anno si gioca di lunedì. Non so se è sempre, che io non so preparato. Non so veramente a cosa che stai a parlare. No, non lo so. Comunque, due libri anche quest'oggi, un tuffo nel passato. Parleremo più o meno di libri storici, anche se insomma, uno è più anche un giallo. Quindi inizieremo da, insomma, siamo quasi onorati, si può dire questa cosa? Sì, assolutamente sì. Visto che finora non è stato ancora presentato a Radio Onda Rossa, presentiamo il libro di Salvatore Ricciardi di Edizioni Deriva Pro, di Maelstrom, Scene di rivolta e auto-organizzazione di classe in Italia 1960-1980, diciamo che questo sottotitolo è bello carico. Sì, impegnativo, e poi neanche a farlo apposta, perché in realtà poi la puntata è nata, come spesso capita a Tabula Rasa, in maniera molto autonoma e naturale, però al libro di Salvatore è accoppiato, ne parleremo intorno alle 21:30, L'odore acido di quei giorni di Paolo Grunni, che si collegherà con noi da Milano, libro edito da Laurana Editore, è uscito mi sembra nell'estate scorsa, quindi nel 2011, libro abbastanza recente, che in parte di quel periodo storico che tu citavi, molto esteso, quello che viene affrontato dal libro di Salvatore, in un periodo di tempo più ristretto, quindi tra il 76 e il 77, va a sviluppare una trama che non è solo storica, anche una trama noir, ma di questo parleremo più avanti. Perfetto, quindi diciamo che vogliamo iniziare subito. Sono le 21:15, abbiamo sistemato anche i microfoni che andiamo ad accendere e direi che possiamo iniziare anche con questa trasmissione, questa settimana di Tabula Rasa, e iniziamo appunto con il libro di Salvatore, poi lo interromperemo per presentare l'altro libro e poi torneremo su Salvatore. Allora, innanzitutto benvenuto a Tabula Rasa, è una cosa incredibile che ancora, insomma, voglio dire, voce Salvatore, insomma, voce di questa radio. Quasi uno scandalo, ancora non era stato presentato il libro di Salvatore. È un conflitto di interessi. Conflitto di interessi, non si capisce comunque. Quindi noi siamo appunto onorati di presentare come anteprima a Radio Onda Rossa il libro di Salvatore. Allora, iniziamo, ovviamente dici un po' innanzitutto come è nato. Allora, tante persone hanno scritto di quegli anni, tante persone hanno scritto di esperienze politiche a cui sono appartenuti negli anni 70. Te hai scritto un libro, quasi, insomma, il sottotitolo è quasi da trattato: Scene di rivolta e auto-organizzazione di classe. Quindi nomini già, diciamo, in questo sottotitolo la parola di rivolta, la parola auto-organizzazione, la parola classe, e un periodo storico 1960-1980. Esatto. Oh, l'80 non è che è un termine storico, è il termine perché a me mi hanno arrestato e quindi... Stata chiaramente la narrazione esterna, perché non ci stavo più. Ecco, chiaro, giustamente hai notato, le parole sono molto secche, ma non solo nel titolo, in tutto il libro. Allora possiamo dire che non c'erano zone grigie, per come l'abbiamo visto. Io inizio il racconto esterno da luglio 60, ero un ragazzetto di 19 anni, abitavo vicino a Porta San Paolo, quindi non ero politicizzato come la gran parte dei ragazzi che vivevano la strada in quel periodo. Siamo stati coinvolti dalla rivolta di luglio 60 contro Tambroni. Tambroni, chi non so ricorderà, era un democristiano che fa un governo per la prima volta dopo la resistenza con l'appoggio del MIS, cioè dei fascisti. Allora il MIS li chiamavamo anche per strada i fascisti, non c'era questa, il politicamente corretto non c'era in quegli anni, e questo forse era un bene, sì. Quindi terminano secchi, appunto. Allora, DC fascisti era una cosa che non si poteva accettare. Ovviamente i partiti di sinistra protestarono, scesero in piazza, però la piazza, e da allora scattò qualcosa di novità, la piazza, lo scontro sia a Genova che a Roma che a Reggio Emilia, con i morti che ci sono stati a Palermo, a Catania, eccetera, fu preso in mano dai giovani. I giovani che c'erano l'età mia, i ventenni, i diciannovenni, i diciottenni, massimo 25 anni, che quindi manifestarono in quello scontro che sembrava di difesa della Costituzione. Quindi il PC lo raccontava così: difendiamo la Costituzione nata dalla resistenza, bla bla bla. Venne preso in mano da sti ragazzi che gli diedero un'altra connotazione, quella di rivolta rispetto a una situazione sociale che non ci garbava. Perché non ci garbava? Perché, come racconto lì, allora il lavoro si trovava spesso. Io, ad esempio, ho finito l'Istituto Tecnico Industriale, il Gallo Vele, andavo qui vicino a Piazza Vittorio, a 18 anni un giorno trovate il lavoro, ma si trovava il lavoro, però le condizioni erano spaventose, lo racconto. Io si lavorava 6 giorni a settimana più metà domenica, scusate se poco, altrimenti chiaramente non te mandavano via. Perché? Perché era il periodo del boom, del grande, bisognava produrre molto, c'era questa immagine, c'era anche questa droga che era l'arricchimento, ci si poteva arricchire con il lavoro. Ovviamente si è dimostrato che era una droga infame, perché non è vero. Però appunto più lavoravi e più guadagnavi e più consumavi, quindi comincia a nascere, questo lo dicono i sociologi, in quegli anni il lavoratore consumatore. Difatti quelle case si cominciano a riempire di elettrodomestici che prima non c'avevamo, e bla bla bla. Ecco, noi stavamo male perché quel lavoro era a 18 anni. Vi posso assicurare che a 19 anni, se vai a lavorare, io lavorai in cantiere, ma anche gli altri posti non te lo regalavo. Lavori 6 giorni alla settimana, dalle 7 di mattina alle 6, 7 di sera, questa, più la domenica mattina, è chiaro che ti incazzi. Certo. Non voglio capire che, ecco, come minimo ti incazzi. Il problema è capire contro chi ti incazzi. Allora, e poi tornavamo in quartiere, quelle poche ere di libertà, il quartiere era un continuo cementificazione. Allora si vedeva, era palese proprio, no, erano gli anni 60, il grosso a Roma. Certo, Roma soprattutto. Quindi quegli spazi proprio per l'arricchimento si buttavano giù le baracche, esatto, e si continuava. E non a caso appunto tutta Cinecittà nasce in quegli anni. Ma anche mia nonna, mi ricordo, insomma, pure lei negli 60 proprio ha preso da baracca, hanno portato, esatto, nella casa, case su case. E quindi quei pochi spazi che noi dal dopoguerra, pischelletti così, ci avevamo, che ci andavano a giocare a pallone, a fare le cose, ci vengono sottratti da sta cementificazione. Quindi in più non c'era nessuno, era impensabile uno spazio sociale per i giovani, non c'era niente, c'erano le sezioni dei partiti e le parrocchie, queste erano le due cose. Le parrocchie qualcuno di noi ci andava, ma fino a 10, 12, 13 anni poi non potevi sopportare quell'oppressione del prete e scappavi. Le sezioni dei partiti erano più o meno la stessa cosa, non, dal punto di vista dell'organizzazione, cioè non lasciavano nessuno spazio di libertà ai giovani. Bene, quindi questa rabbia contro un po' tutti, ovviamente in piazza si scalda, si innalza, si radicalizza, e soprattutto si radicalizza quando, io a Porta San Paolo avviene così, e c'era stata prima la vittoria di Genova, cioè a Genova soprattutto i camalli, gli operai, anche i giovani, le famose magliette a strisce, vincono con la polizia si ritira. A Roma invece, che succede? Succede che, mi ricordo, era l'imbrunire, era luglio, quindi l'imbrunire arriverà verso le 8 o le 9 di sera. Dopo cariche e cariche, però si resisteva, e i carabinieri a cavallo dei Dinzeo cominciano a arretrare, forse erano stanchi i cavalli, forse erano stanchi loro, e quindi noi contenti cominciamo a prendere la piazza. Arrivano i dirigenti del PC che dicono: fermate gli scontri. Perché? Perché adesso si va a trattare, con questo rapporto di forza, si va a trattare il Parlamento per far cadere Tambroni e mettere un governo diverso. E noi questa cosa non la capivamo e non ci piacque, perché come fermi lo scontro adesso che stiamo ribaltando il rapporto di forza, adesso stiamo dicendo. Da lì scatta qualche cosa, non solo a me, ma probabilmente a un po' tutta la generazione. Quella molla che ritroviamo a Torino nel 62 nei fatti di Piazza Statuto. I fatti di Piazza Statuto, due anni dopo, sempre a luglio, chissà, per luglio è un bel mese, no, perché quando sono nata io, francese, ovviamente. E vabbè, è un mese che si sta per strada, quindi vabbè, sì, per quello. Che i ragazzi, i giovani immigrati del sud che vanno a Torino perché la Fiat aumentava produzione e quindi manodopera, super sfruttati eccetera, durante un contratto la situazione comincia, sembra buona, improvvisamente la UIL più il sindacato di Agnelli, quello padronale, allora si chiamava il SIDA, firmano separatamente, quindi bloccano la lotta. Gli operai stavano ai picchetti, incazzati, dalle porte Fiat vanno verso Piazza Statuto, che all'interno di Torino, dove c'è la sede di UIL, l'assaltano. C'è la polizia, lo scontro, uno scontro che dura 3 giorni, uno scontro tremendo. Ecco, quella, secondo me c'è un legame, perché sono gli stessi giovani, i giovani del luglio 60, i giovani di Piazza Statuto. A Roma la stessa cosa avverrà nel 63, ci fu una grossa lotta degli edili. Io appunto lavoravo in cantiere, quindi stavo in quella categoria. Gli edili per avere quella che poi diventerà la cassa integrazione, cioè allora quando pioveva non lavoravi e non piovevi una lira, quindi... fece una grossa lotta. L'ACER, l'Associazione dei Costruttori Romani, edili stava a Piazza Santi Apostoli. C'è fu una manifestazione lì, uno scontro lunghissimo che è durato tutta la giornata, 186 arresti, cioè una cosa tremenda, tantissimi feriti, uno scontro anche lì grosso, con una grossa parte. Che volevano dire sti fatti? Che in realtà appunto la rabbia c'era e si manifestava, ma non solo, ma che il... diciamo quello che doveva essere il partito che in quel periodo in realtà dirigeva le cose, tutto il Partito Comunista era il grosso partito, però non c'era quasi niente al di fuori del partito, prende le distanze, soprattutto dai fatti di Piazza Statuto, chiamando questi teppisti. Anche gli scontri di Santi Apostoli dicono addirittura che c'erano degli infiltrati, ci sono dei libri che asseriscono che c'erano degli infiltrati nel... Ora io mi ricordo... etimologia, insomma, un'etimologia delle parole che poi ci ritroviamo, insomma. Gli edili incazzati è facile riconoscerli perché sono vestiti da edili, escono dai cantieri, insomma, vabbè. Comunque, vabbè, questo per dire. Ecco, allora, finita la narrazione, poi continua lì. Io dicevo, questo è un elemento centrale, secondo me, cioè perché ho scritto questo libro? Il motivo principale è perché ricordare queste cose, ma non solo come racconti di cronaca, ma per estrarne da lì qualche riflessione. Una è questa, la rottura fondamentale che c'è stato poi in tutti quegli anni, la seconda metà degli anni 60 e tutti gli anni 70, col movimento storico ufficiale, cioè col PC. Non c'è stata tanto una continuità, anche se per esempio libri come la Rossand e altri parlano di album di famiglia. Lo era probabilmente fisicamente, eravamo figli di comunisti che stavano al PC, è ovvio che... Vabbè, no. Quello penso un po' anche la mia generazione alla fine, insomma, sì, sempre... Beh, sì, dipende, però sì. Però ecco, la concezione era profondamente diversa. Io sottolineo due passaggi che secondo me sono stati una grossa rottura, un po' una rivoluzione copernicana, come si dice, che quella l'abbiamo vinta, perché secondo me continuano ad esserci oggi, quella vera l'abbiamo persa, quella sociale. Però questa, quali sono? Uno, che venivano proprio da questi fatti concreti, poi qualcuno l'ha anche teorizzati come Quaderni Rossi, ci ha anche elaborato. Cioè, che cosa? Allora, i partiti comunisti, tutti i partiti della Terza Internazionale, erano organizzati in questo modo. C'era il movimento sindacale, sindacati, associazioni, eccetera, che facevano le lotte immediate. Cioè, il lavoratore lottava per il salario, per l'orario, le condizioni di marietà, e nei quartieri si lottava per la casa, la bolletta, l'affitto. E poi il partito, e queste però rimanevano, erano lotte che finivano lì, quando si faceva l'accordo finiva tutto, tornava la pace. Il partito prendeva tutto questo bagaglio di forze e lo gestiva a livello politico, in rapporto con gli altri partiti. Per che cosa fare? Per stabilire gli equilibri di governo. Difatti le manifestazioni del luglio 60 servirono per dare la strada al centro-sinistra, insomma. Quello scontro servì, dice, c'è un bel libro che dice, 11 morti ci sono voluti per costruire un nuovo equilibrio di governo. Quello è stato realmente. Quindi questa divisione tra sindacale e politico, tra lotta immediata e lotta politica che gestiva il PC, produceva una non partecipazione. Tu non potevi partecipare, tu anche se organizzavi la più bella lotta, facevi la lotta, poi arrivava a una conclusione, trattativa più o meno vincente o meno, e poi il partito diceva di fermare. E tu tornavi a lavorare e il partito gestiva questo accumulo di forza per fare il centrosinistra, per fare la politica industriale di un certo tipo, la cassa del mezzogiorno, per fare le politiche. Quindi c'era questo stacco separato che veramente emarginava il soggetto sociale, cioè il lavoratore, il ragazzo, il giovane, il meno giovane, dalla partecipazione alla politica. Non era tanto un fatto di democrazia formale, non è il fatto che nelle sezioni non si discutesse, perché si discuteva pure, si votava pure, ma se tu non partecipi, cioè se la tua lotta non produce una trasformazione reale, è chiaro che non ti senti partecipato. C'era un filtro, quindi. E c'era il filtro. E allora noi abbiamo assunto un'intuizione che poi appunto Guadagni Rossi la elabora a me, Tronti ancora di più, però quando ha fatto Stato e Capitale poi ha cambiato le sue idee. Comunque il fatto che la lotta operaia è l'elemento centrale della trasformazione sociale. Non è vero che è l'attività del partito, del politico, ma è la lotta sociale, quindi per la casa, per il lavoro, per il salario, per l'orario, che innesca un meccanismo e produce un'idea di società diversa, produce proprio un percorso. Cioè, tu partendo dalla lotta immediata che fai, puoi trasformare la società. Quindi il fatto che tu, mentre fai una lotta di qualunque tipo, sei protagonista non solo della tua condizione, ma di un cambiamento dell'assetto sociale. E quindi cominci a ragionare pure che società vorresti, di uguali, e lì abbiamo cominciato a elaborare tutto quello che poi, quel qua c'erano di cose che nel 77 esplode, no? Le comuni, vivere insieme, mettere le cose insieme, vivere sempre collettivamente, abbandonare l'individualismo, abbandonare pure un po' il consumismo, fare le cose. Nasce tutto quel quacervo che negli anni 70 esploderanno anche in maniera forse eccessivamente radicale, però è così, quando un fenomeno lo carichi di significato, no? Cioè tu cambi la società cambiando il tuo percorso di vita reale, cioè la lotta la fai di più, in fabbrica sei più antagonista, nel quartiere vivi più collettivamente, cioè questo percorso ti senti partecipe di una trasformazione sociale, non solo di pagare meno l'affitto o di avere 100 lire di più. Ti interrompo un attimo, Salvo, una cosa che mi ha colpito delle prime pagine del tuo libro, perché te lo dicevo prima della trasmissione che sono ancora a pagina più o meno 90, ma la dici sin dall'inizio, il fatto che la contrapposizione enorme che io ho visto tra queste prime pagine del tuo libro e quella che è la storiografia su quegli anni, dai 60 agli 80, quantomeno dai 60 alla fine degli anni 70, anche la storiografia, come dire, più partigiana, che però dà agli anni 60, al 68 in poi, quindi per quei due anni, una connotazione quasi allegrotta, un po' hippie, gioiosa, e poi come se dal 31 dicembre del 1969 scatta la costellazione della Luna Nera, e quindi mano a mano c'è una progressiva angoscia, ansia, rabbia che arriva. Mentre invece, da quello che dici te, non solo, basterebbe forse anche leggere un po' di libri di storia e andare a vedere le righe. Tu hai parlato di Piazza Statuto, del 6 luglio a Porta San Paolo e così via. La rabbia, come dire, non era solo una prerogativa degli anni 70, no, evidentemente. No. Infatti questa cosa è quella che poi mi ha fatto arrabbiare di più a me, leggere questi libri a cui ti riferivi tu, no? Del fatto che hanno separato. Il 68 era bello, era creativo, poi gli anni 70 sono gli anni di piombo. Questa cosa qui ti rende, soprattutto perché se l'hai fatto quel percorso, ti ha fastidio. E anche per quello ho pensato di dire due cose, insomma, diverse. È così come, cioè, le famose cesure di quel ventennio, no? Una è il 68, tra il 68 e il resto, l'altra è con Piazza Fontana, la strage della Banca d'Agricoltura, e altra è il 77. Queste cesure sono messe dagli storici. È chiaro che avvengono è tutto un cambiamento, un rivolgimento lungo questi vent'anni, che però non c'ha delle cesure prima e poi diventa un'altra cosa. È un continuum di questo movimento, che appunto era un flusso che si muoveva abbastanza vorticosamente. Ecco, l'altro elemento, e poi finisco questa, che io ecco la, quindi quella prima cosa, domanda che faccio a tutti i compagni, soprattutto quelli giovani che si muovono oggi, è ancora vera questa cosa? Cioè siete ancora convinti che lottando per le proprie condizioni immediate, dal problema del quartiere che ti mancano spazio verde al problema del precariato, oggi ci sono le fabbriche, il coso dei monti eccetera, stai su un terreno di cambiamento della società oppure no? Questo è il problema, perché se veramente questo è la domanda che faccio io ai compagni giovani perché allora veramente manteniamo questa ricchezza, altrimenti l'abbiamo persa. Ma guarda, io da non giovane, perché magari fossi giovane, però credo che una risposta da dare, non so Cristina che ne pensa, in questi anni, soprattutto negli ultimi 5-6, forse nell'ultimo decennio, è che no, mi viene da dire no, purtroppo, nel senso che manca c'è un senso di disgregazione, no? Per cui in realtà ti sembra di stare all'anno zero, per cui inizi una lotta particolare sperando che forse da lì si sfoci in qualcosa di più comune, però in realtà ti sembra già quasi un miracolo se riesci a organizzare quella singola lotta. Non c'è quella sensazione che, per quanto mi riguarda, io ho letto, ho visto fondamentalmente nei libri, nei racconti, di quello che dicevi te, un effetto, come posso dire, tantam, no? Per cui c'è una lotta qui, una lotta là, che poi alla fine la cosa che mi colpiva di quello che dicevi te prima, il fatto dell'immaginare, tu hai detto prima, mi sembra più o meno le parole precise, inizi a immaginare, non solo a lottare, ma a immaginare che tipo di società vorresti. Una cosa che mi veniva da chiederti è proprio questa, non è che cerco la data da te, ma ti ricordi come e quando, prima a microfoni spenti ci parlavi del come in quegli anni stavate sempre insieme, hai detto, ti ricordi più o meno come e quando, dalla rabbia più o meno non troppo articolata nella tua testa, ma anche dei compagni e delle compagne che stavano con te, a un certo punto piano piano, deve essere stato anche quasi un'epifania quella di iniziare a concepire un'altra possibilità, se è venuta dall'esterno, se è stato un accordo tra l'interno vostro e l'esterno, mi riferisco anche alle lotte negli altri paesi e così via. Cioè, no, no, anche qui non c'è una data precisa, è chiaro che l'elemento di vivere molto insieme era il brodo, dove tu, stando sempre insieme, comunicavi le lotte che facevi e ti veniva in mente quasi spontaneamente dire: beh, dopo questa lotta non è che mi fermi, io immagino un'altra, perché se io lotto, per esempio, perché non mi vanno bene le condizioni di lavoro, è perché concepisco un altro tipo di lavoro, casomai confuso, non sappiamo. Anche il non lavoro. Anche il non lavoro, infatti siamo arrivati al non lavoro, perché è ovvio. È chiaro che poi così hanno influito anche le lotte internazionali, allora erano tantissime. Consideriamo che negli anni 60... Tu ne parli nel libro, infatti uno dei capitoli, insomma, che inquadri tantissimo giustamente quelle che erano le condizioni di tantissime lotte che c'erano, e anche di contatti che c'erano con tutte le altre realtà che avvenivano non tanto in Europa ma nel resto del mondo, come in Sud America o in Medio Oriente. Allora, ad esempio, mi ricordo che vennero a Roma un gruppo di ragazzi giapponesi, no? Parlavano un po' in inglese. Ecco, la vicinanza, uno pensa ai giapponesi, chissà, un'altra cultura, poi venuta fuori tutta sta bailamma della cultura, l'etnia, per carità, però io mi ricordo con quei ragazzi giapponesi abbiamo fatto una cena insieme, ma sembravano ragazzi del quartiere a fianco, cioè perché facevano le stesse cose, ci raccontava gli scontri della polizia, erano più o meno uguali, loro molto più duri, perché la polizia giapponese è infame quanto poche, da come dai racconti, veramente infame. E quindi voglio dire, tutta sta divisione, perché quindi c'era un movimento, cioè il Che, secondo me, il Che Guevara, no? ha dato spunto al ragazzo da Thailandia, a quello norvegese, a quello francese, a quello italiano, perché così è stato. Quindi c'era tutta questa come dire, questo humus che te faceva. Io voglio rispondere alla domanda, perché non ci avevo mai riflettuto, però è una cosa a cui invece in realtà un po' ed è un po' la questione delle, cioè, nel senso, io ho sempre pensato che le generazioni dopo questa, dopo la vostra, dopo quella degli anni 70 eccetera, perché appunto è la mia, ha avuto sempre un senso di frustrazione molto grossa, no? Ed nasceva proprio, secondo me, anche da una concezione di immaginario, nel senso che tutto quello che era possibile ed immaginabile, anche di società diverse eccetera, già era stato pensato, già era stato elaborato, sono stati scritti tantissimi libri, dalla sessualità a un mondo diverso, penso anche a libri in cui io sono cresciuta, di scrittrici americane che immaginavano proprio totalmente una società diversa, no? Fatta raccontare da una donna chiusa in un manicomio, insomma, in cui, cioè, quindi diciamo la mia generazione è cresciuta molto così, tanto che oggi vedo, insomma, secondo me che appunto questo è stato un po' un limite, anche se poi insomma a 20 anni penso tutte le generazioni immaginano delle cose, purtroppo mi sembra che adesso le nuove generazioni, cioè viene lasciato invece un po' troppo poco spazio all'immaginazione delle nuove generazioni, nel senso che poi i protagonisti politici o comunque le cose politiche sono sempre le stesse un po' in qualche maniera, anche le persone, no? E quindi quello un po' a tarpa le ali. Io leggendo questo libro appunto vedevo proprio ragazzino, ventenne, insomma, come quando io ho iniziato a fare politica, comunque dal liceo piuttosto che dai primi anni, no? Eccetera. E invece poi l'età avanza, no? Così come ti dicono che sei sempre, che a 40 anni sei ancora giovane, forse ecco questo è così, è la politica, mi sembra che viene lasciato un... però questo era un inciso per rispondere a Valerio che... No, però è vero sta cosa, io questa poi casomai bisognerebbe però soffermarci, cioè chiediamo a chi ci ascolta di soffermarsi lei o lui a ragionare, perché secondo me questa mancanza di creatività, cioè di dire guarda che sei tu che devi costruire un'altra società, non un altro, è... L'assenza di questo crea il ceto politico, che secondo me oggi ce n'è tanto, come dicevi tu, ce n'è tanto, perché poi qui le lotte non è che non si fanno, però vengono anche queste come faceva il PC una volta, cioè il meccanismo è lo stesso, che poi non sia un partito ma sia un piccolo collettivo è uguale, cioè la lotta si fa, mettiamo l'occupazione in casa, a Roma sono tantissime, però senza che si offenda nessuno, vengono poi... Quella lotta reale, fatta da gente reale, viene gestita politicamente da alcuni che non si chiamano partito, però agiscono come se lo fossero, vanno a mediare con qualche istituzione per fare tot tot, e non è la stessa cosa. Significa deprivare, proprio no, togliere la capacità di immaginare. Chi occupa una casa potrebbe già immaginare una vita diversa, perché tu dici perché dobbiamo fare tanti appartamenti e chiudere, ma perché non facciamo proprio una cucina collettiva come si pensava allora? Già quello cambia le forme di vita, non facciamo o qualcosa di collettivo, non facciamo una specie di comune, piuttosto che invece prendere ognuno, chiudersi nel proprio appartamento e fare la vita come gli altri, no? Ecco, quella cosa oggi manca, e secondo me questo favorisce la crescita del ceto politico distaccato dalla... Allora, diciamo che questa è una prima parte del libro, poi torno io una cosa prima che chiudiamo, non so se Valeria è... Insomma, il libro io l'ho trovato molto bello, è scritto molto bene, è molto semplice, analizza anche con parole molto semplici, con parole anche molto forti, dal sottotitolo si nota, no? Scene di rivolta e organizzazione di classe in Italia. E questa è una critica che faccio a Deriva Prodi, perché difficilmente, insomma, invece in altri momenti mi era capitato, che sono i refusi nei libri, che sono una cosa che io odio, che mi fa che rende difficile la lettura, perché ti fa... Oh, hai detto che lo dicevi? Lo sto dicendo, no, questo è un appunto a Deriva Prodi, per una volta insomma in cui gli diamo il merito di scrivere, di pubblicare tanti libri che nessun altro farebbe, li abbiamo presentati anche tante qua, Sergio gli vogliamo tanto bene, però insomma in questo caso le uscite forse troppo precipitose dei libri fanno sì che le rimangano poi insomma appunto queste... un nome, un titolo, un capitolo, insomma poteva essere un po' impaginato un po' meglio, però il libro è scritto bene, io ve lo consiglio, anche perché è molto semplice, non è come potrebbe sembrare un saggio. Sì, comunque ne andremo a parlare, soprattutto dell'altro decennio che manca da questo racconto forzatamente parziale che abbiamo fatto fino adesso, ne andremo a parlare tra poco. Credo che faremo una necessaria pausa musicale e poi ci andremo a collegare con Paolo Grugni, a cui tra l'altro ho mandato un messaggio adesso perché siamo leggermente in ritardo, questo lo dico qualora ci stia ascoltando, come credo, via streaming. Lo andremo a contattare benissimo, Paolo Grugni, l'autore dell'altro libro che presentiamo stasera, L'odore acido di quei giorni, e quei giorni sono dei giorni che si collocano esattamente in quel periodo di cui abbiamo parlato fino adesso. Well, it's summer, it's sad, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer, it's sad, then we go through many changes. Well, it's summer, it's sad, then all I really know is that I truly am. And the summer, it's sad. In the summer inside, in the summer inside. Radio 87.9, riaccendo i microfoni, ci spostiamo a Milano. Benvenuto Paolo. Ciao, grazie. Allora, innanzitutto, vabbè, anche tu raccontaci un po', insomma, abbiamo presentato un po' questo libro di Salvatore Ricciardi, Maelstrom, e abbiamo parlato un po' degli anni 60 e della sua esperienza politica in quegli anni. Innanzitutto, la prima domanda che mi viene, insomma, così spontanea, poi Valerio pure sta qui, sì, è come ti è venuto in mente e perché di scrivere un giallo? Tu scrivi sempre gialli, io ho il primo libro che leggo tuo, quindi non so se questa narrativa così da noir è un tuo classico oppure no, e perché cioè, hai scelto proprio questa storia, un po', insomma, poi raccontacela. Allora, ho scelto questa storia perché mi sono reso conto che del 77 in realtà non sapevo nulla. Era una data come tante altre, ne sentivo parlare, e anche perché poi io l'ho mancata di poco. Quando ero a scuola nel 77 avevo 14-15 anni, ero molto piccolo e molto immaturo, e quando l'ho vissuta non ho capito assolutamente niente di quello che stavo vivendo. E ho deciso poi di recuperare quegli anni, anche perché appunto, come dicevo, poi sentivo parlare del 77 e l'ho vissuto sempre come un'occasione mancata, di qualcosa che mi era sfuggito. Allora ho recuperato la storia del 77, lo sono andata a studiare, l'ho rivissuta, ci ho lavorato sopra e ci ho fatto un romanzo. L'ho fatto, come hai detto tu giustamente, in versione noir. C'è una trama, credo, piuttosto intricata tra servizi segreti, agitatori politici di destra e di sinistra, e come sfondo appunto al movimento che nasce poi nel febbraio del 77 e che si conclude poco dopo a Bologna. In realtà ho già scritto dei romanzi noir o gialli, soprattutto ho esordito con un giallo nel 2004, e però poi ho alternato ad altre cose che col noir o col giallo avevano poco a che fare. In questo caso ho ripreso la trama appunto noir perché mi sembrava abbastanza utile per avvicinare i lettori, soprattutto i ragazzi, a capire cosa era successo in quegli anni. Se avessi fatto un romanzo specifico sul 77, forse l'avrei allontanato, avrebbero ritenuto una cosa noiosa, pallosa, mentre così secondo me si avvincono alla trama e imparano cosa è realmente successo in quegli anni. Paolo, Valerio, buonasera. Buonasera Valerio. Allora, a proposito, andandoti a fare una domanda proprio con partendo dalle ultime cose che dicevi, una cosa che mi da persona leggermente più giovane, io sono del 68 quindi non sono poi così giovane, però anch'io per anni ho avuto questa sensazione di averlo sfiorato quel periodo, perché io come te, anche se sei un po' più grande, però abbiamo avuto credo entrambi questa sensazione di vedere qualcosa che accadeva ma di non comprenderlo fino in fondo. Sì. Poi piano piano ho iniziato a avvicinarmi a quell'argomento crescendo, ne parlavamo prima con Salvatore che è qui in studio, ho avuto modo di avvicinarmi e devo dire che il tuo romanzo, insieme per esempio al libro di Salvatore e a pochi altri, mi ha restituito una gioia, che è quella di vedere quel periodo non rappresentato con gli anni di piombo. Il complimento va non soltanto a te ma anche alla casa editrice, che nella quarta di copertina non usa mai questa terminologia terribile. E poi c'è, e così andiamo anche alla domanda. Beh, io ricordo che Gaber li chiama gli anni affollati invece di anni di piombo. Esatto. Eravamo molto affollati. Molto, molto affollati. Sì, sia nelle strade, che eravamo sempre belle piene, le strade e le piazze, sia anche nei luoghi fumosi dove facciamo le riunioni, è chiaro. Assolutamente. Tra l'altro appunto riunioni che io vedevo fare soprattutto all'interno della scuola, dove c'erano picchetti, situazioni anche molto pesanti, ma io ero appunto, avevo 14-15 anni e ero talmente al margine della situazione, però le capivo, cioè che c'era qualcosa, capivo che c'era qualcosa che stava succedendo, no? Ma non ero, oltre che non maturo psicologicamente, ero anche immaturo fisicamente, non potevo vivere una cosa tipo picchetti, ero quasi un bambino veramente. E quindi ti dicevo, appunto, nella seconda di copertina c'è questa frase, non so se è stata scelta da te o dalla casa editrice, in cui leggo testualmente, viene scritto: il 77 fu la speranza di un'Italia diversa, ma le trame del potere spensero il sogno. La cosa che mi ha molto colpito, io devo dire che questo libro, come raramente mi capita, l'ho comprato proprio perché ho letto questa frase, non ho letto il resto. Avevo capito, vedendo la foto che coraggiosamente avete scelto del carro armato sotto i portici di Bologna, leggere questa frase mi ha colpito moltissimo. L'hai già detto, però mi piacerebbe se andassi ancora oltre. Come, qual è il tuo punto di vista, appunto, sulla su quello che è il racconto storiografico alla fine dei vincitori di quegli anni, perché quegli anni ci vengono raccontati come gli anni della tetraggine, no? Della rabbia che esplode. Ma sono gli anni in cui si vive una speranza, no? Il 77, allora, quando uno parla del 77 in realtà non è un anno, cioè, perché il 77 finisce a marzo e quindi è difficile dire un anno, cioè finisce a marzo quando i carri armati entrano a Bologna e spengono quello che era il sogno di un'Italia diversa culturalmente, artisticamente, cioè, e quindi Cossiga manda i carri armati e, diciamolo, la Bologna del PC gli apre le strade, perché bisogna ricordare che il sindaco della città era comunista, e aprono la possibilità a Cossiga di intervenire con i carri armati e spengono quello che era il sogno del 77. Poi ricordiamo che finito il 77 si aprono gli anni 80, dove l'Italia diventa molto più facilona, goliardica, quelli che dovevano essere gli yuppies o robe del genere, e quindi l'ultima speranza, secondo me, dell'Italia, di un'Italia diversa, era rappresentata dal movimento con tutte le contraddizioni, le diverse anime, più violente, meno violente, però c'era qualcosa dietro, no? C'era un sogno, e che ovviamente in Italia non era assolutamente possibile realizzare, ed è stato violentemente spento, perché, come giustamente ricordi, l'immagine di copertina è un fatto reale, quell'immagine, ma è anche un simbolo, cioè, a me non ricorda solo il 77 di Bologna, ma ricorda anche i carri armati di Praga o di altre cose, no? Quando si deve reprimere si manda il carro armato. Certo. Io diciamo che poi l'intreccio insomma, del giallo, tu lo inquadri anche con tutta questa organizzazione che è Ordine Nuovo, insomma, tu parli appunto del libro, non c'è soltanto lo Stato, non ci sono soltanto i sognatori, chiamiamoli così, insomma, i rivoltosi o comunque la politica, eccetera, c'è Ordine Nuovo al servizio dello Stato, a cui tu fai girare tutto questo, dove, intorno al quale appunto poi gira il giallo, che oggettivamente, insomma, di giallo ce n'è molto. E, insomma, mi chiedevo come ti fosse nata anche la storia appunto di far entrare poi le organizzazioni fasciste, quasi come appunto una, poi, ma storicamente una manovalanza. In effetti esplodono in tutti i sensi, anche non metaforico, nel 69 a Piazza Fontana. Adesso è uscito in questi giorni il film, deve uscire. Però va ricordato che le trame nere in Italia iniziano subito dopo la guerra. Cioè, già i vecchi fascisti, subito dopo la guerra, nelle prime organizzazioni governative riescono a entrare. Lo stesso Almirante, che diventerà veramente uno dei personaggi più tragici e pericolosi d'Italia, subito dopo riesce già a entrare in mille complotti, no? Quindi le trame nere fasciste non muoiono col fascismo, quando appunto l'Italia viene liberata, ma vengono subito riprese. Esplodono a Piazza Fontana e continuano e arrivano al 77 e arrivano alla P2 e arrivano a Berlusconi. Senti Paolo, invece una domanda un po' più, come dire, narrativa tecnica. Il protagonista del libro, Bellezza, ex medico, fa un mestiere assolutamente di nicchia, che ne rappresenta anche il suo essere ai margini dei margini, cioè raccoglie cadaveri, un lavoro che ha trovato per, tra virgolette, per carità, grazie alla carità di un notabile del paese, adesso non ricordo esattamente, raccoglie i cadaveri di vari animali. Questa è una curiosità che mi è venuta appena. Come ti è venuto in mente? Va detto due cose su questa figura. Innanzitutto riporta la mia passione per gli animali, il mio amore per gli animali, e questa è una costante di tutti i miei libri, per cui io cerco sempre di tramandare il mio amore per gli animali ogni volta che scrivo qualcosa, e spero che passi, spero che arrivi alla gente che legge. E poi va detto che questo personaggio così assurdo in realtà esiste, nel senso che io ho ripreso la figura da una specie di miliardario neozelandese, proprietario di terreni immensi appunto in Nuova Zelanda, il quale tutte le mattine si alza e va a recuperare i cadaveri degli animali, li attacca al pick up, li trascina, che hanno queste scie di umori, di sangue, così, nella sua zona, sperando che i suoi simili lo seguono e entrino nel suo territorio, cioè a questi territori immensi dove lui spera così che gli animali entrino, e dove gli animali a quel punto sono assolutamente protetti perché hanno acqua, cibo, tutto quello che vogliono. E quindi lui cerca di salvare gli animali andando a recuperare i cadaveri degli altri uccisi dalle auto. Io l'ho trovato una cosa assolutamente straordinaria e l'ho riportata indietro di 30 anni, perché io ho letto questo articolo, credo, sul Corriere un paio d'anni fa, e ho riportato, ho ricreato questa figura nel 77 a Bologna, creando un po' un personaggio che vegetariano, appunto, che veterinario, che fa tutta una serie di cose straordinarie per gli animali, e appunto è un mix poi di fantasia e di realtà, perché appunto la figura è ispirata a questo personaggio neozelandese. Invece, a proposito delle cose del tuo libro, c'era dedica, che è invece quella invece mi ha meravigliato quantomeno, che è invece al giudice Vittorio Corso, che tu scrivi fu il primo magistrato a occuparsi della loggia massonica P2. Normalmente, parlando di quegli anni, la magistratura viene vista come un avversario, come dire, definito quasi da corollario di quelli che Cristina prima chiamava i rivoltosi. Te invece metti questo nome, questa figura di magistrato, in un libro invece in cui si parla in un certo modo di quegli anni. Come mai? Ma perché è una figura tragica di quegli anni, è una figura che ha provato, e credo ci stesse anche riuscendo, perché se no non l'avrebbero ammazzato, a capire cos'era la P2, cos'era il piano rinascita e a cosa avrebbe portato. Perché la cosa interessante è, per esempio, andarsi a rileggere, lo si trova tranquillamente su internet, cos'era il piano rinascita. Uno va a leggere il piano rinascita e capisce esattamente che questo piano rinascita è stato perfettamente realizzato con l'avvento di Berlusconi. Quindi, ma c'è scritto, cioè io non invento nulla, basta leggerlo e leggere le parole di Gelli o chi l'ha scritto questo piano, lo legge e uno dice: ma cavolo, abbiamo vissuto adesso in questi anni, è esattamente uguale. E quindi quest'uomo qui, questo giudice, che ha provato a capire cosa c'era dietro, ha pagato con la vita. E evidentemente forse l'uomo aveva già accolto, già capito delle cose che forse in parte abbiamo saputo e forse in parte non sapremo mai. Benissimo, Paolo, noi per questione di tempo purtroppo siamo quasi sul finire. Due domande. Tu parlavi prima del tuo amore per gli animali, che è il motore di dell'ultimo tuo lavoro, se non sbaglio, no? Ci siamo sentiti via mail e mi hai detto, tra l'altro l'ho letto anche su internet, che è uscito da poco un racconto, mi sembra, che è reperibile via ebook. Esattamente, ci spieghi tutto il tipo di operazione? Ma sì, è un'operazione molto semplice. Attraverso Milano Nera, dell'amico Paolo Roversi, lui mi ha chiesto un racconto da pubblicare per la sua casa editrice, che è una casa editrice che pubblica solo online, e io gli ho detto: va bene, te lo do, però facciamo un'operazione per cui il ricavato delle vendite di questo raccontino online le diamo in beneficenza a un'associazione per gli animali. Poi l'associazione che ho scelto è la Voce dei Conigli, che è un'associazione che si occupa di recuperare gli animali, i conigli abbandonati, di darli in adozione, che è una cosa un po' diversa dalla solita di cani e gatti, dove ci sono appunto magari già migliaia di persone che se ne occupano, mentre quella per i coniglietti insomma è già una cosa un po' più marginale. Quindi abbiamo fatto questa operazione dove il racconto costa 89 centesimi, 45 vanno a questa associazione e vediamo di aiutare un po' i coniglietti abbandonati, che per me è una cosa, magari per altri farà sorridere, per me invece è una cosa molto importante. Benissimo, e poi invece chiudiamo con quella che è a tabula rasa questa trasmissione, è la domanda tradizionale. Questa è una trasmissione per dilettori con scrittori che sono però, immagino, anche lettori, quindi cosa stai leggendo in questo periodo? Cosa sto leggendo? Sto leggendo... allora, sto scrivendo due cose, una raccolta di racconti che credo uscirà l'anno prossimo, e sto scrivendo un romanzo ambientato nella DDR, negli anni 70, nella Germania comunista, e sto leggendo tutti i saggi che mi riportano a quegli anni, ma soprattutto, come nel caso del 77, vado a parlare di cose che in fondo non conosco, perché se uno mi avesse chiesto: Paolo, cos'è una società marxista-leninista? Io non avrei saputo rispondere. Adesso, dopo un anno che studio il marxismo-leninismo, adesso so rispondere cos'è, cosa voleva, dove ha sbagliato e cosa ha portato nella DDR. Quindi sto leggendo solo saggi sul comunismo e storia e storia della Repubblica Democratica Tedesca. Questo poi mi porterà forse nel 2013-2014 a pubblicare questo romanzo. Insomma, cioè, è ancora molto lunga. Infatti la cosa che anche avevo apprezzato di questo libro è che tu poi metti alla fine una grande bibliografia che oggettivamente nei romanzi noir normalmente non viene messa, che invece aiuta tantissimo proprio perché parli appunto di eventi storici. Sì, cioè proprio per quello che dicevo, cioè ho dovuto talmente, ci ho messo studiare. Due anni di studio, di ricerca, perché alla fine se vado a fare un romanzo che riporta eventi reali devo essere assolutamente certo, preciso e attendibile, poi magari il dettaglio può sfuggire sempre, però insomma dovevo assolutamente essere stradocumentato, e quindi poi ho voluto, e poi tra l'altro oltre alla bibliografia c'è anche il saggio finale di Roberto Pedretti che spiega gli errori voluti nel romanzo, perché il romanzo ha due o tre forzature storiche. Tipo il fatto che uno dei protagonisti è una donna della polizia, quando nel 77 le donne della polizia non c'erano. Quindi abbiamo spiegato il perché, abbiamo anticipato leggermente i tempi, abbiamo forzato alcune cose, insomma abbiamo voluto spiegare anche al lettore, che magari, un lettore ovviamente molto esperto, che poteva trovare qualche incongruenza storica. Quindi ci sembrava utile anche questo per dare un panorama completo della situazione. Tra l'altro, a proposito di forzature, noi ne abbiamo fatta una, più che altro una dimenticanza, visto il tempo ristretto, ci siamo dimenticati di citare il fatto che una delle voci narranti, il controcanto al tuo libro, è Radio Alice, a cui noi ovviamente come Radio Onda Rossa ci sentiamo molto molto legati, e quella anche è una cosa molto apprezzabile, perché comunque non sempre viene ricordato il ruolo che è stato di quella radio, ma soprattutto il fatto che poi fu assolutamente seminale, voglio dire. Certo, totalmente, totalmente. E tra l'altro voglio anche ricordare, visto che il romanzo in fondo è anche una severa critica alla sinistra di quegli anni, voglio anche ricordare che il PC era contro le radio libere. Grazie Paolo. Non ci stupiamo. Tuttora penso. No. Allora, grazie a voi, grazie Paolo, ci sentiamo. È stato un piacere. A presto. Grazie. Ciao. Ripeti lì il titolo? Il titolo del libro è L'odore acido di quei giorni. Paolo Grugna era l'autore con cui abbiamo avuto questo iper piacevole e iper interessante collegamento. Giustamente Salvatore, da scrittore, mi fa notare che non ho citato l'editore, quindi vado a essere ancora più preciso. Paolo Grugni, l'autore che abbiamo appena sentito, L'odore acido di quei giorni, pubblicato con Laurana Editore. We'll be right back. bene, piano piano ritorniamo, anche perché sono le 22 passate, ma ci prendiamo questi minuti in più, visto che la trasmissione è ancora dopo di noi e si è spostata al... Marciamo spediti verso al, Todos al, quindi marciamo spediti verso Todos. È un po' appunto lui, casualmente, anche senza forse sentire la nostra trasmissione, insomma, parlava un po' dei marxisti, ne siamo fuori onda, dicevamo appunto che sicuramente questa parola, la parola comunista, no, che ognuno, penso, nel proprio, nella propria era, nella propria decennio, nella propria, nel proprio anno, si è auto, cioè si è affibbiata e se l'è anche rivendicata come propria idea, no? Nel senso, non è che il comunismo è solo quello marxista leninista della Russia o via dicendo. Diciamo che in questo è una parola, tra virgolette, un po', me la posso definire un po' anarchica, nel senso che l'idea di comunismo poi è anche un'idea che uno condivide con altre persone, la sogna, la cerca di realizzarla, certo, no? Certo. Per quello che vuol dire vivere in comunità, abbattere quelli che sono la società attuale e via dicendo, come un po' poi ci hai detto anche te prima. Certo, che poi anche se, come ho ripetuto prima, no? Come ho detto prima, noi siamo partiti dalla gran parte di noi eravamo ragazzi di strada, poi chiaro abbiamo incontrato anche intellettuali eccetera, però e poi abbiamo fatto, perché poi col tempo, anche se uno non aveva le lauree in tasca, però abbiamo letto i libri. In realtà la scoperta di un marxismo libertario è quanto mai attuale, molto più di come interpretavano i cosiddetti marxisti-leninisti la figura di Marx. Marx, se uno lo arriva a leggere, trova molti aspetti libertari addirittura trionfanti, ed oggi l'interpretazione è questa. Il problema è che loro avevano ingessato un concetto, e questa è l'altra rottura che dicevo all'inizio, no? È quella di loro, nella loro visione, che oggi alcuni filosofi, secondo me simpatici, la chiamano più agostiniana, nel senso di vedere, Agostino era quello che vedeva la provvidenza che stava dietro a tutte le cose, per cui c'è l'industrializzazione, questo però servirà a, infatti Agostino dice l'impero romano e l'impero greco, pur essendo atei o comunque non credenti, però l'involucro dell'impero romano è servito a creare poi il cristianesimo, no? Quindi dà a quelle società che pure condanna l'elemento, la provvidenza aveva fatto sì che l'impero romano permettesse poi che questo venisse riempito dal cristianesimo. Ecco, questa concezione c'era tra i vecchi comunisti, non noi, che dicevano ogni passaggio, quindi l'industrializzazione del dopoguerra, no? Forzata, la distruzione dell'agricoltura, delle campagne, era tutto un qualcosa come una provvidenza che avrebbe aperto le porte a questo benedetto, le città che si ingrandivano, il lavoro che diventava spaventoso, il consumismo, eccetera. Questa cosa è determinista in realtà, no? Come se il mondo andasse, certo, sicuramente invece verso la rivoluzione qui ed ora, se arriviamo sicuramente al Parigi. Non è vero, perché poi abbiamo visto sti passi indietro, abbiamo fatto, quindi la realtà ha dato ragione più a noi che a loro, tanto è vero che loro sono scomparsi. Noi penso la frase la rivoluzione qui ed ora fosse un po' più, insomma, apparteneva un po' di più, di pensare a un modello, diciamo così, di quasi di ascesa verso, esatto, la rivoluzione, per cui si dovesse in qualche modo attuare una riforma, una, insomma, che ne so, industriale, eccetera. Allora, c'era questa mania che veniva dall'Unione Sovietica, probabilmente, di sviluppare le forze produttive, quindi l'industria, come se l'industria, soprattutto quella più era pesante, più avrebbe portato, non si capisce bene, a sto benedetto comunismo, solo che anche soltanto la puzza delle ciminiere, dei siderurgici, è chiaro che non te poteva pensare che lì arrivavi, e difatti poi si è rotta quella società, proprio perché è impattata su questo grosso atteggiamento, troppo lavorismo. E anche il PC poi in fondo ha toppato sul terreno quando Lama nel 77, visto che fa quel discorso, ne parla anche Paolo nel suo infatti, libro, perché fu tremendo quando lui disse e dice dobbiamo fare i sacrifici noi per rilanciare l'economia, perché questa economia nazionale è un po' come adesso. Poi, se noi stringiamo la cinghia l'economia nazionale va bene e quindi domani arriveremo al paradiso terrestre. Ora, sta cosa ci hanno fregato 75 volte, non facciamo. E quando poi disse che per favorire questa cosa bisognava anche dare libertà di licenziamento, Lama, adesso lo dice Monti, allora disse Lama, più o meno, ecco, è chiaro che questa cosa, tu dicevi no, io ho un'altra idea di comunismo, è proprio un'altra cosa, mi chiamo comunista ma sto diametralmente opposto. Tant'è vero che il PC appunto appoggiava i carri armati di Cossiga, le carceri speciali e tutto quello che viene appresso. Allora, il tuo libro in realtà inizia con il tuo arresto, perché poi tu hai scritto 1960-1980, però il libro in realtà non finisce nel 1980, perché nel 1980 inizia per te un'altra vita. Appunto, il libro inizia in realtà con non tanto con il tuo arresto, ma con la tua evasione. tentata tentata evasione no, stavo in Sud America tentata evasione dal carcere di Regina Coeli, sì. E in cui tu la cosa che insomma è un po' qualcuno mi ha detto ah certo questo libro di Salvatore, però lui tu non racconti mai i motivi per cui sei stato arrestato, non racconti mai i tuoi capi di imputazione, non racconti mai tutte queste cose, no? Al contrario appunto di quello che poi diceva prima Salvatore, in cui tante persone invece hanno parlato della sua, della propria organizzazione, cioè tu hai parlato più delle tue scelte politiche, le condizioni storiche diciamo così, per le tue scelte politiche, quindi hai inquadrato storicamente molto bene secondo me quelli che erano gli anni che hanno portato poi tante organizzazioni a fare tante cose diverse, e però inizia appunto con la tua evasione, certo. Inizia con l'80. Ma è chiaro, io ho provato a fare questo, questa cosa qui. E no? Poi parla tanto del carcere, cioè, del libro parla del carcere, perché tu ci hai passato tanti anni dentro a quel carcere. Ci stai tanto, ti rimane attaccato alla pelle, quindi ancora adesso le trasmissioni fatte in radio, chi li ascolta, parlo molto di carcere. Ti rimane attaccato addosso e ti rimane un odio che tu devi farci conti con questo carcere che ti ha tolto più di metà della vita. Io faccio così, come diceva anche Paolo, no? Quegli anni lì, gli anni secondo me anche 60, e ovviamente a maggior ragione quei 70, sono stati anni molto affollati, che vuol dire? Vivevamo molto collettivamente, ogni scelta si faceva con un gruppo di persone, quindi era si viveva insieme in tutti i posti, le strade erano affollate, le piazze erano affollate di gente che condivideva un percorso, quindi discuteva in continuazione, si discuteva all'infinito anche, quindi si stava molto insieme. Questo carattere collettivo ho cercato di darlo non raccontando le mie scelte fino a che sto fuori, cioè fuori più un percorso collettivo variato, con grossa mobilità da un'organizzazione all'altra, però era un percorso collettivo. Quando ti trovi in carcere è lì scatta un problema, tu sei tu contro la struttura carceraria, e perché il problema del carcere è che ti individualizza, c'hai un numero di matricola, il trattamento è individualizzato, ogni cosa, la condanna è individualizzata eccetera eccetera. E poi spesso ti trovi in isolamento, tu in una cella in 4 metri quadri e con meno degli animali, discutevamo prima con gli animalisti, cioè, i carcerati hanno meno metri quadrati degli animali, che per carità è sbagliato trattarli male, però insomma gli uomini lo stesso. E allora e quindi comincio a fare delle riflessioni, no? E io quindi ho messo il momento della riflessione, perché ho fatto le scelte, perché ho fatto come mi sentivo, che cosa vivevo, insomma, no? Ecco, se volevo rivendicare stando lì le mie scelte oppure dicevo ho sbagliato tutto, le faccio nel momento in cui sto soprattutto isolato, i primi giorni, i primi mesi, sono stati 3 mesi di isolamento e quindi c'hai molto tempo, cioè 24 ore al giorno moltiplicato per 3 mesi, dormi poco perché non puoi fare movimento, quindi dormi poco, quindi c'hai molto tempo per riflettere, e lì ho cominciato a ripercorrere un po' quello che mi aveva portato là dentro, ragionando su tutto, la vita della clandestinità com'è, con i suoi pro e i suoi contro, le relazioni, anche i tentativi che avevamo fatto in passato di fare questa vita comune, e poi l'innalzamento feroce dello scontro che non era stato dovuto soltanto a noi, giustamente dice Paolo, quando mettono i carri armati per strada chiaramente spostano un po' il livello dello scontro, insomma non è che con i carri armati ci vogliono altri carri armati, è finita la battaglia. E quindi ecco, quindi rifletti un po' tutte queste cose, quindi lascio alla parte che sto in carcere il momento della riflessione. Non parlo chiaramente delle, queste l'ho fatto proprio di proposito perché alcuni me l'hanno chiesto, della mia proprio presenza, delle azioni, per esempio, che ne so, altri libri come Miccia Corta, se l'avete letto, cioè, danno molto enfasi secondo me alle azioni fatte nel momento della lotta armata. Io ho evitato di parlare di nessuna azione lotta, se non la rivolta in carcere, che era pure quella armata perché c'era un po' di esplosivo, però solo la rivolta in carcere. Perché? Perché se no sono convinto che anche se erano 400 pagine, ci fossero state 10 pagine che parlavano di alcuni azioni armate, si concentravano tutti lì e le altre 390 venivano abbandonate. A me interessava parlare di un percorso collettivo che parte proprio da dei pischelli di strada, anche perché questo, perché non è vero che sono stati degli intellettuali, ma anche il movimento degli studenti è venuto dopo, cioè questo grosso spallata, questo grosso tentativo diciamo di rivoluzione è stato fatto prevalentemente da ragazzi di strada che appunto a partire dalle condizioni, quindi come voi apposta è possibile, quindi non è che avevamo fatto corsi, studi particolari, hanno impattato una realtà, ci hanno messo la loro volontà di volerla cambiare e poi sono andati a cercare gli addentellati, no, internazionali oppure teorici, per capire meglio che cosa fare, ma quello che volevamo fare era chiaro, volevamo cambiare totalmente questa società, appunto. Una cosa che si nota da alcune cose che hai scritto, una in particolare che mi ha colpito, che mi ha colpito proprio tantissimo, perché nel tuo libro, almeno ripeto, nelle pagine che ho letto fino adesso, ma mi sembra che poi sia così, l'hai detto anche te, tu cerchi di non neutralizzarti, però di diventare terzo rispetto a quello che racconti, quindi ci sono delle analisi, delle contestualizzazioni, però poi gioco forza, qualcosa di te esce fuori, non solo quando sei in carcere, ma una cosa che è a pagina 20 che mi ha veramente emozionato è il racconto del tuo arresto, non tanto per le sensazioni ma per i suoni. Tu parli del fatto che mentre vieni trasferito a Via Inselci, mi sembra, la cosa che ti conforta, nonostante stai andando in un posto che sai che Allegro non sarà, ti conforta sentire i rumori di questa città, i rumori di Roma, che poi definisci musica celestiale una volta che uscirai fuori. Questa cosa mi ha colpito, A, per come viene raccontata, secondo proprio perché rende... questa più che una domanda, preparati, questo è semplicemente un complimento, rende il fatto che quelle persone lì, l'hai detto te adesso, venivano dalla strada e non dai libri, non come magari qualcuno ha detto dal scrivania dove c'era qualche grande vecchio seduto e così via. E questa, rispondendo in maniera tardiva alla tua domanda, forse è la vera continuità che posso vedere tra le lotte di quel tempo e quelle di adesso, con tutta la disgregazione che ci sta adesso. Ripeto, non c'è punto di domanda, solo una cosa da dire. No, però è vero, è vero. Quella, io ho percepito, abbiamo letto tutti i racconti, che so, dei grandi narratori americani, io perlomeno ci sono cresciuto, no? Ma anche quelli russi, no? Soprattutto però quelli americani, che raccontavano con capacità enorme questi spazi enormi, no? E raccontavano quegli ambienti in maniera dettagliata. Il nostro ambiente è qual è? È la strada, no? La città. E non ti metti a raccontare la montagna, l'albero. Non ci stanno queste cose. A Roma c'è. È che li cercavo. Lo sfigato che non ti racconta niente. Invece il rumore della strada era la nostra libertà. Se tu senti la motoretta che sgomma, per te è quella la libertà, sì, sì, che stai lì per strada, puoi salire su quel motorino e corre. L'urlo dell'automobilista, quella è Roma, certo. Quella era, e quindi è chiaro che è quello il senso della libertà. Il nostro, non so, non ci stanno bei libri che raccontano il rumore della città come l'hanno raccontato i paesaggisti dell'Ottocento, ripeto. Però andrebbe fatto, perché poi la gran parte della gente vive nelle città, o perlomeno noi in Europa viviamo prevalentemente nelle città. Nelle città ci stanno questi altri rumori. È chiaro che è difficile raccontare la sporcizia della strada, eccetera, però è quella la nostra libertà. Se tu dai in calcio a un barattolo, vuol dire che stai camminando per la strada e quindi sei libero, capito? Certo, non stai in riva a un fiume bellissimo, splendido, con ruscelletto, perché non ci sono mai stato, non so se ci sarò, però una volta all'anno ci vai lì. Non è quella la mia vita. No? Senti, quindi diciamo che non so, insomma, di tutti questi, diciamo, la parte che tu racconti del carcere è fatta tanto di aneddoti, molti, molto simpatici, anche molto divertenti, da, insomma, le possibili evasioni alle cose, come farle entrare, alle cose, cioè alla sopravvivenza dentro il carcere, a come, insomma, il mondo carcerario poi si auto trasformi per poter sopravvivere in qualsiasi maniera, no? Con tutta la repressione che ci può essere, però il carcere poi alla fine crea naturalmente, perché l'essere umano poi è portato alla sopravvivenza, quindi a forme di comunicazione e di sopravvivenza. E racconti un po' anche, insomma, la trasformazione che c'è stata del carcere, finisci, insomma, parlando dei CIE nelle ultime pagine del tuo libro. Quindi, così come invece nella parte più storica, hai parlato anche tanto dell'emigrazione, per poi, appunto, inizi con l'emigrazione degli italiani e finisci con i CIE. Cioè, mi è sembrato, insomma, unire la storia degli anni 60 al carcere, alla storia attuale, insomma, con insomma, attualizzandola molto bene, ecco. Non so cosa si può raccontare, insomma, di... Io vi invito a leggere un libro che racconta, insomma, anche tutti questi anni di carcere, perché insomma è... Anche quello è un universo che rischia di scomparire, ma non tanto che magari scomparisse il carcere, tutto quel sapere che tu hai cogliuto, che è fatto di quei motti, piccole cose. Cioè, il carcere si parla molto poco, sembra che, perché le parole hanno un peso, visto che certo. non c'è altro lì, però non certo. e io mi troverei malissimo se perché parlo troppo, ti puoi rovinare il rapporto per i prossimi mesi. E quindi i motti sono appunto delle parole selezionate con dei concetti precisi che danno però che si trasmettono anche facilmente, perché anche l'analfabeta può ricordare la frasetta. E questo è il sapere del carcerato, che era diventato, quando sono entrato io, ce n'era una ricchezza enorme e ti permetteva di sopravvivere in quella situazione disastrosa e anche di avvicinare la fuga, l'evasione, e soprattutto però poi anche di costruire un tessuto collettivo che ti permetteva di difendersi sia dal carcere in generale sia dalle guardie specifiche che ti aggredivano. Ecco, questa cosa è importante parlarne, perché io credo che si stia perdendo, ovviamente ormai manco da un po' di tempo nel carcere, però già negli ultimi anni stava cambiando formalmente. Oggi in carcere stanno soggetti deboli perché non hanno più sto sapere, un po' perché per il grosso afflusso dei migrati, circa il 40%, quindi è chiaro che è difficoltà anche, e poi i tossicodipendenti, che sono tantissimi e che loro per struttura sono deboli nel senso che non stanno in carcere per lottare contro il carcere o per scappare, stanno lì perché l'hanno messi lì, ma se li mette da un'altra parte sta da un'altra parte. E questa enorme presenza dei soggetti deboli pare che stia facendo scomparire quello che è il sapere della popolazione carceraria, che era la sua forza. Cioè, prima il carcerato era una, tant'è vero che ha fatto una stagione di rivolte, infatti che tu racconti insomma anche molto bene, certo, che hanno segnato anche politicamente, cioè molti alcuni studiosi tipo Palombarini eccetera, che dice che le elaborazioni fatte in carcere in quegli anni sono pregiate, sono molto pregiate, importanti. Quindi per dire che non è che c'erano, era un tessuto proletario, perché quelli c'erano allora, e i ricchi non ci andavano in carcere, ma manca adesso, ovviamente, che aveva costruito un suo sapere, una sua dignità, una sua collocazione sociale anche, che si sentiva tipico il fatto dei fazzoletti rossi. I fazzoletti rossi è un esempio importante, di operai Fiat del 73 eccetera eccetera, no? Ecco, che quando facevano i cortei interni si mettevano il fazzoletto per non farsi riconoscere dalle telecamere interne. I carcerati raccolgono questa evasione, si mettono un fazzoletto quando dovevano attaccare i boss, perché i boss creavano difficoltà a organizzare la rivolta. I boss chiaramente legati alla direzione, i boss della malavita sono sempre okay. legati alla direzione, quindi c'avevano la loro rete di spie e impedivano che una rivolta potesse costruirsi. Allora menavano a sti boss, perché così li mandavano alle celle o li espellevano dal reparto, dal braccio, mettendosi un fazzoletto rosso, quindi non solo per nascondere ma anche per idealmente collocarsi a una situazione operaria. C'era un collegamento. Esatto, un collegamento ideale, no? Quindi è importante sta cosa di vedere. Ma questo al di là se fossero detenuti cosiddetti politici o erano comuni, questa grossa, c'erano molti politici ovviamente allora, però certo. questa grossa crescita, diciamo la politicizzazione, è avvenuta dai detenuti comuni, che hanno espresso poi, perché ci avevano dentro una carica di violenza enorme, diciamo indirizzata politicamente, e avevano una forza tremenda, che sono quelli che poi hanno guidato la gran parte. INAP, l'organizzazione dei INAP, no? Che è durata poco però è stata significativa, all'80% erano fatta da comuni, politicizzati in carcere, ma erano detenuti comuni, rapinatori in genere. No, io stavo cercando una frase che tu dici per quanto riguardava invece gli scritti politici, cioè dei detenuti politici nelle carceri, di quello che scrivevano, no? Che è un po' come una critica. In conclusione, questo quasi all'inizio del libro te lo dici, non so a chi lo fai dire, va bene, basterebbe che i compagni prigionieri smettessero di scrivere ponderosi documenti con la pretesa di spiegare da qui dentro a chi sta lottando fuori come si deve fare per una rivoluzione. Sì. Questo... Certo. Vabbè, quella è una polemica. Una polemica. Così. C'è stata pure nel PC, che ha letto gli scritti di Gramsci, anche Gramsci quando stava in carcere litiga con la direzione del Partito Comunista, che stava all'estero, però comunque era sempre direzione, perché quando si va in carcere in genere i primi che arrestano chi sono? I fondatori, no? Perché certo. è un problema di casualità, da prima sei e più possibilità c'è entrare in carcere, e quindi a un certo punto si è trovato che i fondatori, diciamo, delle Brigate Rosse, ma anche di tutte le altre organizzazioni, stavano in carcere, e stanno in carcere un po' per volontà di continuare a vivere chiaramente, un po' perché si sentivano forse così autorizzati a questo compito, si cominciano a fare delle elaborazioni che poi si mandavano fuori, il sistema di mandarli fuori ci stanno sempre, anche clandestinamente, per interagire. Però è chiaro che dov'era lo scompiglio? Che stando in galera 5, 6, 7 anni hai perso il senso di quello che succedeva fuori. Questo si nota soprattutto nel 77, quando chi stava dentro da 3-4 anni non capisce quel tipo di movimento, perché era talmente, diciamo, l'insorgenza del 67 è stata esplosiva, quindi non comprensibile a chi non l'aveva vissuta i mesi precedenti, no? È talmente un accavallamento di fatti, di situazioni e anche di crescita del movimento, e quindi ne davano un'interpretazione molto diversa. Loro fanno dei contributi, lo scontro, lo scazzo che facciamo tra quelli arrestati, io ero stato nell'80, con quelli che stavano dentro da 5 anni, che per carità tanto bene gli volevamo, però gli diceva, c'era uno scontro, diciamo, polemico, dal fatto che loro da dentro volevano esercitare funzioni di direzione fuori, senza avere il polso, se non attraverso la lettura dei giornali, però poca roba, insomma, no? Di quello che stava avvenendo fuori. Tant'è vero che nell'80, io entro nell'80, stavamo lì alla sconfitta della Fiat, che nell'autunno dell'80, loro volevano, dicevano che bisognava rilanciare le fabbriche. Io dico, secondo me stiamo perdendo, no. Stanno a fare un mazzo così, infatti dopo un po' arriva la mazzata e finisce. Quindi c'è questa polemica, che è anche questo che caratterizza il carcere, perché in carcere tu non vuoi essere morto, giustamente. Quindi vuoi continuare a vivere, come vivi in rapporto all'esterno, però dovresti trovare, che so, un tipo di contributo, perché se pensi di dirigere da dentro al carcere fuori, vuol dire che a te non ti è mai venuto invece voglia di scrivere in carcere? Hai scritto? Non in questo modo, perché siccome avevamo fatto la polemica prima, mandavamo contributi di carattere però teorico, quindi non politici, non utilizzabili, no, leggendo i libri, come avevamo tempo, leggiamo i libri, contributi teorici che sono economici, ecco, di analisi, le questioni economiche, che significava, chi non aveva tempo fuori di leggere libri, a inquadrare meglio alcune situazioni, però più che altro contributi di questo tipo, non linea politica, perché la facevi fuori dalla realtà che era tumultuosa in quegli anni e che modificava veramente di mese in mese. Va bene, io direi quasi possiamo, insomma, nel libro poi ci sta, cioè potrebbe parlare per ore, forse l'ultima cosa che possiamo parlare è, visto che siamo a San Lorenzo, visto che siamo a Via De Volsci, insomma, in parte a un certo punto nella tua vita, nel 71, manco troppo, insomma, anzi ormai tanti anni fa, siamo a 41 quasi, e approdi, inizi a fare il ferroviere, a un certo punto dall'edile passi alle ferrovie, ovviamente San Lorenzo è il quartiere delle ferrovie, e prendete come ferrovieri una sede proprio qui a Via De Volsci, cioè la prima sede affittata a quel tempo, il 71, perché era chiusa, sono le prime due saracinesche di Via De Volsci verso Via 4, sì. Affittammo a pochissimo, però era bella dentro, spaziosa, c'erano le serrande abbassate, siccome qui abitavano un sacco di ferrovieri, ora non più, ma allora ci abbiamo un sacco di ferrovieri, loro ci dissero: guarda, c'è sta sede a due soldi, ce la date, e prendemmo proprio, facemmo il contratto. C'era pure il bagno, quindi era comoda, con la sottoscrizione portavamo un ciclostile, e quindi c'era tutto, punk, sedie, ciclostile, era una bella sede. Ma il quartiere era profondamente diverso, ma però io quando sono uscito, ho preso il primo permesso. E sei venuto dopo 30 anni, dopo quanti anni? Ovviamente 18 anni dopo, sono venuto qui. Il 98. Un altro mondo, primo persona che ho incontrato è Nardo, vuoi ricordare Nardo il calabrese, no? Amico di Daniele, vabbè, comunque Nardo, lo incontrai proprio qui all'imbocco di Via De Volsci, verso dove passa il tram, perché veniva a piedi. E allora, tu quando sei uscito dal carcere, la prima cosa che hai fatto, sei venuto a San Lorenzo. Sì, ho preso il tram. E poi dopo sono fatto a piedi per vedere com'è. E che era completamente diverso, era un'altra cosa, non c'entrava più niente. La frequentazione era il pomeriggio, quindi perché in genere se esce alle 5 del pomeriggio al carcere ti hanno i permessi, quindi sono arrivato verso le 6, diciamo. Era completamente diversa, che poi ovviamente negli anni è ancora, diciamo, secondo me peggiorata, è un giudizio che do tranquillamente, peggiorata, perché questo quartiere è veramente un quartiere reale. Noi quando abbiamo aperta la sede, era una sede dei ferrovieri, poi sono venuti i compagni dell'Enel, del Polinio prima e poi dell'Enel, e quindi, però venivano a sentire gente che non stava, che per la curiosità di sentire, quindi era un quartiere molto popolare, proletario proprio, c'erano lavoratori di tutti i tipi, molti artigiani, anche il piccolo commercio era molto proletario, se vogliamo dire, no? Molto, quindi, e c'era la condivisione, una grossa condivisione, non è che non eri staccato, non eri separato, come invece lo sei di fatto adesso. E probabilmente era molto più vivo di giorno che di notte, ormai questo come altri, penso al Pigneto ad esempio, sono quartieri che di giorno sono dei set vuoti praticamente, no? Era completamente diverso. Qui quando la mattina ci stanno quattro vecchiette, vanno a fare la spesa, c'è il mercato e pochissima gente. La sera invece brulica di persone. E allora era completamente diverso. La mattina c'era un movimento di gente che andava, ovviamente il coso era aperto, il mercato era aperto, c'erano bancarelle, insomma, no? Non c'era la costruzione che hanno fatto. Ed era grosso vivo, insomma, no? C'era un bar, il bar di Serafina all'angolo con Via degli Equi, tra Via Leoce e Via degli Equi, ed era un bar, ma non c'aveva resta di fuori perché stava sul marciapiede, però i capannelli di gente intorno erano tantissimi, quindi se anche qui era pieno dei capannelli, lungo Via di Burtina, cioè era molto ricco di frequentazione. E questo ci ha permesso di fare un sacco di cose, perché il fatto di parlare con la gente, ci sentivi già una integrata una situazione di quartiere, cioè una situazione lavorativa i cui frequentatori venivano da più parti, perché non tutti abitavamo il San Lorenzo ovviamente, e però è anche col quartiere, quindi già questo legame, che tra l'altro fu anche una grossa, per tutto un periodo è stata anche una grossa difesa rispetto per esempio quando veniva la polizia o altre cose, perché il quartiere t'allertava subito, le cose, sapevi subito quando da Piazza Tiburtina, cioè dall'inizio della cosa, arrivava una camionetta, facciamo una camionetta della polizia dei carabinieri, tu lo sapevi subito, e non è che c'erano i telefonini, certo. Voce in voce, perché il quartiere era allertato, non è che si faceva i cavoli suoi, insomma, no? Quindi c'era una situazione molto bella. Sarebbe da fare questa, però fuori anche dal libro, una chiacchierata sulle trasformazioni, sul fatto che un quartiere vero, reale, anche proletario, diventa un divertificio, come si dice oggi, come è diventato San Lorenzo. Ci sono 700, non so, locali. Sì, ormai, come sentì dire un po' di tempo fa, San Lorenzo è diventata una pizzeria, una cosa del genere, praticamente. Una pista. Va bene, senti Salvatore, potremmo continuare a parlarne per ore ovviamente di questo libro, perché è molto intenso. Io invito, ne faremo delle altre di presentazione del libro in radio, io invito comunque tutti a leggerlo, perché è sicuramente uno spaccato di quegli anni non indifferente, sia storico che umano, e anche insomma per capire molto dell'esistente di oggi, insomma di analisi e via dicendo. E ripetiamo i libri. Prima chiediamo a Salvatore che sta leggendo. Ah, giusto, che stai leggendo, Salvatore? Dimmi. Sto rileggendo, perché è uscito in edizione economica, perché dopo che ho scritto questo lo sto rileggendo. È un libro bellissimo, e consiglio anche ai giovani, tanto è in edizione economica e costa poco, di Viktor Serge, un rivoluzionario russo, anche lui poi entra in dissidenza, eccetera, eccetera. Memorie di un rivoluzionario si chiama, certo. È bellissimo. Tra l'altro lui è entusiasta, ovviamente, nei primi anni della rivoluzione, era un anarchico che diventa bolscevico perché dice questi sono gagliardi, vanno avanti, vanno a vincere, a fare un sacco di cazzate. È così, capito? Un ragionamento bello che butta via l'ideologia e dice vabbè, ma questi c'hanno un'idea. Ci mettono il fegato, anche se non sarà nella storia come dicono i grandi testi, vogliono farla, appunto la realizzano, quindi io sto con loro, voi state a chiacchierare tutti i chiacchieroni che dicono sì però qui non è giusto, vabbè famo le cose, non rompete, e diventa bolscevico. Se poi ovviamente la situazione degrada, ma per tanti motivi eccetera eccetera, e quindi lui diventa un dissidente. E quindi è molto bello quel libro, è molto, perché poi le rivoluzioni sono così, cioè il problema quando senti la voglia di farle, bisogna fare, devi dare la spallata, poi come va, non è un fatto, la certezza non c'è mai, chi aspetta la certezza, è quello che dico spesso, chi aspetta la certezza del risultato non esce manco di casa la mattina, perché no, ma anche se aspetti il momento buono per cioè nel senso non c'è mai, secondo me è quotidiano la vita, la famosa crisi, no? C'erano dei marxisti, quelli classici, aspettavano la famosa crisi totale che avrebbe, ci siamo arrivati eppure non sta succedendo niente, non è vero, allora c'erano molte più possibilità di dare una spallata che non adesso, perché adesso quindi non è problema di aspettare quelle famose condizioni. Quando la realtà giovanile sicuramente si sente di dare una spallata, dai, andate e fate, ragazzi. Che la dia, va bene. Noi allora su che la dia, Valerio, che dire? Andiamo, finiamo qua. Vuoi ripetere anche il libro di Paolo? Sì, andiamo a ricordarvi i due libri che abbiamo presentato oggi. Andiamo in ordine contrario rispetto alla presentazione cronologica. Quindi iniziamo con il libro di Paolo Grugni, L'odore acido di quei giorni, Laurana Editore. E Maelstrom, Salvatore Ricciardi, della Deriva a Prodi. Noi ci sentiamo fra due settimane. Beh, lo sai che non è dipende. Pasquetta. Non dipende solo. Ah, è Pasquetta. Mi sa che è Pasquetta, però potremmo farla lo stesso. Non mi fa se mi cadi su le festività. festività religiose e sulle festività quelle ortodosse. No, guarda, come prima, esattamente, continui a sparare, non capisco di che parli. Detto ciò, vi andiamo a ricordare che però la prossima settimana, alla stessa ora, quindi dalle 21, ci dovrebbe essere quell'altro ragazzo, magari ragazzo, che quest'anno mette il 4 davanti allo 0 e quindi fatti suoi, ci raggiunge. E comunque sì, un'altra puntata di Tabula Rasa anche la prossima settimana per l'edizione di Pasquetta, ne parleremo, insomma. Manca vediamo tantissimo tempo. Ringraziamo Salvatore, sì, è stato veramente un piacere. Tra l'altro io trovo quasi assurdo che fino adesso non fosse stato presentato il libro. Non so che dobbiamo fare, meno male che ci abbiamo pensato noi. No, io devo dire che ultimamente stiamo facendo queste presentazioni di questi libri molto belli, sostanziosi, insomma, vuol dire che si stanno producendo finalmente. Devo dire che quest'anno ho letto molto, tante cose belle, perché normalmente io sono una che legge tanto, deve leggere, però il libro mi deve prendere, perché se non mi prende io non so, un oddio, lo devo finire, no, te lascio. Io ho smesso da anni, te lascio cosa. E ciao. Per cui invece stanno lì bene, invece devo dire che quest'anno, insomma, abbiamo letto dei bei libri. Vedremo, insomma, cosa ci riserva fra due settimane, perché purtroppo tanti libri stranieri poi no, sono anche di difficile presentazione. Ci dovremmo inventare qualcosa, tipo imitare l'autore, invitare qualcuno che fa finta che parla un accento un po' così. Comunque, sicuramente non abbiate paura, qualcosa ci inventeremo. Sono le 22:33, quindi avrete un po' di musica in libertà. E poi alle 23, come ogni lunedì, una delle mie trasmissioni preferite, fammelo dire, vado a dire Todos sugli 87.9 di Onda Rossa. Buonanotte ciao, a tutti. Buona ciao. Ciao.